Proseguiamo il corso con la Torah di Mishnah, sempre nel terzo capitolo di Bava Metzia, e siamo arrivati alla Mishnah numero 6. A differenza delle Mishnayot precedenti, dove siamo stati presentati come se noi fossimo il Bet Din, il tribunale che decide, siamo stati presentati con delle situazioni dove è necessario l'intervento del Bet Din, questa Mishnah di oggi, appunto la sesta Mishnah del capitolo, ci presenta non con un problema che è nato, ma direttamente spiegando un principio di comportamento, sempre nell'ambito dello Shomer, e cioè colui che custodisce un oggetto per un'altra persona, e nel caso specifico si tratta di materiale organico, di cibo, ma cosa che può essere applicata anche ad altri materiali organici, e la domanda è fino a che punto deve chi custodisce questo materiale, questo bene, fino a che punto deve intervenire o non può intervenire, come vedremo, per salvaguardare il cibo stesso. Perché chiaramente, trattandosi di materiale organico, la cosa può andare nel tempo a rovinarsi, ad essere diminuito di volume e altre problematiche. Di conseguenza bisogna capire lo Shomer come può o non può intervenire in queste situazioni. Andiamo direttamente al testo della Mishnah ed iniziamo ad approfondire. Hamafkid peirot etzel chavero. Colui che deposita, se qualcuno deposita dei frutti presso il proprio compagno, la parola peirot letteralmente frutta, ma in realtà in questo contesto non si intende necessariamente dei frutti, bensì dei prodotti agricoli in generale, come vedremo. Cosa deve fare lo Shomer? Dice la Mishnah, afilu hen ovdin, anche se dovessero rovinarsi, lo yigabahen, non le tocchi. E cioè, tu sei uno shomer, il tuo lavoro qui non è di andare a vendere questi frutti e tenere il ricavato per il proprietario dei beni, oppure di fare altri interventi. Tu sei uno shomer è qualcuno che riceve e custodisce così come è l'oggetto. Questa è però solamente l'opinione del Tana Kama, del primo Tana che interviene nella Mishnah, in questo caso in anonimato, ma la Mishnah subito fa presente l'opinione contraria, che invece è di un maestro specifico nominato per nome. Vediamo subito. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon, figlio di Gamliel, dice: Mochran bifnei bet din. No, tu sei lo Shomer e dovresti salvaguardare. Ora vedremo le motivazioni. Forse non in quanto Shomer, tu dovresti salvaguardare il bene del tuo prossimo, quindi dovresti venderli davanti al tribunale, i prodotti, e continua dicendo, mi penei shehu che meshiv aveda, perché è come se uno restituisca un bene perduto al padrone originale. Ora andiamo passo passo per cercare di capire meglio questa Mishnah numero 6. Innanzitutto la prima opinione della Mishnah, che dice, addirittura non solamente dice non sei obbligato ad intervenire, ma dice non toccarli. È ovvio che non intende dire letteralmente non puoi mettere la mano su quel bene, su quel prodotto. Intende dire che lo Shomer deve limitarsi al suo compito, che è quello di solamente salvaguardare quello che gli è stato dato nel modo in cui gli è stato dato, senza intervenire. Quindi dice addirittura non solamente non sei obbligato ad intervenire, ma sei obbligato a non intervenire. Lo yigabehen, non li tocchi. Arriva Rabban Shimon ben Gamliel, notate il titolo non Rabbi, ma Rabban. In quell'epoca il titolo Rabban indicava il capo del Sinedrio, il capo del Sanedrin. Nasi Bet Adin Agadol, è il ruolo ufficiale. Rabban Shimon ben Gamliel dice: nel momento in cui quel bene inizia a perdere di valore, tu sei obbligato ad intervenire. Ora, colui che ha dato la consegna al custode, cosa aveva in mente? Aveva in mente di perdere, di tornare e ricevere un bene che non ha più lo stesso valore del bene che ha dato in custodire? Ovviamente si presume di no. E di conseguenza bisogna capire qual è il vero senso di questo atto di dare a custodire quel bene. È per salvaguardarlo, non per andare a perdere qualcosa. Di conseguenza bisogna intervenire. Ora Rabban Shimon ben Gamliel dice: sì, tu devi intervenire, ma in che maniera devi intervenire? Non puoi postare un messaggio su Facebook o sul gruppo WhatsApp del condominio: abbiamo un chilo di pomodoro da salvaguardare, di pomodori, e chi vuole acquistarlo? No, deve essere una cosa ufficializzata, quindi stimata dal Beddin e venduta davanti al Beddin. Davanti al Beddin significa secondo le istruzioni e le indicazioni del Beddin, e questa sarà una vendita riconosciuta. È legale per ciò che è necessario qui. E in quel momento, quindi, Rabban Shimon ben Gamliel condiziona questo obbligo dello Shomer dicendo che Mohran Bifnei Betin deve venderli davanti al Betin, e poi aggiunge un'altra frase. E questa frase è la chiave della idea che porta alla conclusione di Rabban Shimon ben Gamliel. La frase, appunto, che avevamo già letto è Mipenei Shehu Kemeshiv Aveda. Cioè, è come se tu restituissi un bene perso al padrone originale. Cosa sta dicendo qui Rabban Shimon ben Gamliel? Rabban Shimon ben Gamliel sta dicendo, effettivamente, forse come Shomer tu non dovresti intervenire. Lo Shomer, come appunto pensava il primo maestro citato, il Tana Kama della Mishnah, lo Shomer deve solamente salvaguardare così com'è l'oggetto e non deve intervenire. Rabban Shimon ben Gamliel dice: sì, dal punto di vista dell'aspetto Shomer della persona hai ragione, ma c'è qui anche un altro elemento che va preso in considerazione, e questo elemento qui, nel momento in cui lo prendiamo in considerazione, cambia la regola. E l'elemento è: esiste una mitzvah di Hashavat Avedah, di restituire una cosa persa. La Torah ci insegna, questo stesso trattato al secondo capitolo, in realtà Elul Mitzvot approfondisce le regole specifiche della Hashavat Avedah, dell'obbligo di restituire oggetti persi al proprietario originale. Noi abbiamo una mitzvah della Torah di non oltrepassare un oggetto perso, ma di raccoglierlo e di cercare il proprietario, senza entrare ora in tutti i dettagli. Rabban Shimon ben Gamliel dice: tu hai in mano un oggetto che appartiene ad un'altra persona e sta andando perdendosi. Sta perdendo, l'oggetto stesso è qui chiaramente, ma l'oggetto sta perdendo di valore. Quella perdita di valore rientrerebbe nella mitzvah di Hashavat Avedah, e cioè di restituire, di far non perdere quel valore al proprietario. In questo caso sei obbligato ad intervenire, ma non come Shomer, come sotto un'altra mitzvah, quella di Hashavat Avedah. Ridare l'oggetto perso, restituire l'oggetto perso. E in questo momento, quindi, Rabban Shimon ben Gamliel inserisce un altro elemento qui in tutto il complesso di questo discorso qui del Hamafkid, di chi dà in consegna un oggetto a qualcuno per custodire. Di fatto, visto che abbiamo inserito un altro elemento che è al di fuori del discorso dello Shomer, se lo Shomer non dovesse fare questo, sarebbe considerato, tra virgolette, colpevole di non aver custodito bene l'oggetto? La risposta è no, perché come Shomer non lo deve fare questo intervento. eventualmente l'intervento sarebbe stato fatto in quanto Hashavat Eveda, in quanto restituire un oggetto perso, che è valido per chiunque, non solamente per uno Shomer. Di conseguenza, come Shomer non è colpevole, non sarebbe colpevole se non fosse intervenuto. Quindi questo ci fa capire che è un regime alachico diverso, sono due elementi distinti che si incontrano chiaramente in questo caso. Ora proseguiamo. Il Rambam dice, citando il commento del Rambam, Rabbeinu Moshe ben Maimon sulla Mishnah, lui dice che questa discussione tra il Tana Kamma e Rabban Shimon ben Gamliel si applica solo nel caso in cui la perdita eventuale subita a causa del valore reso minore, se per questioni di perdita di volume, quindi del peso, oppure se ci fosse una situazione di insetti, infestazione di insetti, oppure una questione di semplice muffa e così via. Tutto ciò è valido, questa discussione è valida solamente quando parliamo di una perdita che rientra nei parametri normali, nelle aspettative normali della situazione. In ogni situazione di produzione noi abbiamo un'aspettativa, ecco perché per molti prodotti esiste la data di scadenza ed esiste anche la prospettiva alla quale si va incontro sapendo già dall'inizio quale sarà la perdita di volume eventuale e così via. Se si rientra in questi parametri, allora c'è la discussione dove il Tana Kamma dice non intervenire, non toccare addirittura quel prodotto, e Rabban Shimon ben Gamliel dice no, anche lì dovresti intervenire per non fargli perdere. Ma nel caso più estremo, dove la perdita è una perdita importante, allora lì, dice Rambam, anche il Tana Kamma sarebbe d'accordo che va venduto davanti al Beddin e va salvato il valore del bene. Ok? Quindi questo ci fa capire un po' meglio la discussione. Il Tana Kamma non è, secondo il Rambam, così estremo da dirci che in qualsiasi situazione non devi vendere, vai lì, lascia che la cosa si rovini e non ti preoccupare del bene. No, stiamo parlando solo nell'ambito della normalità. Se uno deve intervenire nell'ambito del contesto normale della perdita del valore dell'oggetto. Andando avanti, la Mishnah successiva, che è la Mishnah numero 7, ci parla della situazione dove effettivamente si sa, lo stesso caso, si dà in custodia, si dà a custodire un prodotto agricolo, sapendo che ci sarà una certa perdita di volume, e la domanda è, cosa succede qualora non è più possibile per lo shomer ridare al mafkid, a colui che ha fatto la consegna, il frutto così com'era? Tutto la stessa quantità, esattamente così com'era al momento della consegna. Vediamo di cosa si tratta. Amafkid perot etzel chavero, la Mishnah inizia con le stesse parole, se uno deposita dei frutti presso il suo prossimo, harize yotzilo chisronot, lo shomer restituisce, ma Yotzi diminuisce, toglie, fa uscire delle chisronot, delle letteralmente mancanze, cioè delle diminuzioni. Ovvero, nel caso in cui, per esempio, io sono un agricoltore e ho un silos di frumento, per esempio il grano. Viene un altro agricoltore mio vicino e mi dice il mio silos è troppo pieno, ho bisogno di imprestare da te un po' di spazio, quindi ti consegno una tonnellata di grano e tu salvaguardala per me. Io cosa faccio? Lo metto insieme al mio grano. E nel tempo io uso quel grano, che è mischiato, mio grano, è una tonnellata del grano del mio vicino, e poi arriva dopo un anno, o dopo 6 mesi, quello che sia, il momento che lui è pronto a riprendere il suo grano, e quindi che io dovrei restituire la consegna. Ora la domanda è, io non ho fatto conti esatti di quanto ho usato, quanto non ho usato, ma è chiaro che c'è una perdita generale. Allora, se devo subire io tutta la perdita, io gli devo riconsegnare una tonnellata intera, esatta, pesata bene, così come lui ha consegnato a me, oppure posso prendere in considerazione la perdita generale di volume che si applica in realtà a tutto il prodotto. Allora la Mishnah dice, Yotzilo Chisronot, come abbiamo letto, lui diminuisce quelle mancanze. E come spiega il Rabbi Ovadia di Bertinoro, che nel momento in cui io ho mischiato appunto il mio prodotto con il suo prodotto con il mio, e l'ho usato, e non so esattamente il volume preciso, la Mishnah dice che ci sono dei volumi generali da considerare di perdita, e noi andiamo in base a questi numeri qua, e la restituzione del bene sarà meno rispetto alla consegna. La Mishnah entra nello specifico, facendo riferimento a dei prodotti specifici che evidentemente erano quelli più comuni all'epoca della Mishnah in Eretz Israel, circa 1800 anni fa, e anche facendo riferimento alle misure specifiche di volume che erano utilizzate all'epoca, e vedremo come si traducono ai volumi usati attualmente, alle misure usate attualmente. Allora la Mishnah dice, le chitin u le orez, per ciò che riguarda il frumento e il riso, tisha chatzaei kabin le kur, 9 mezzi kav per ogni kur, per ogni kor. Il kav equivale a circa 2 litri, e poi c'è un'altra misura di 6 kabin che corrisponde ad una sea, e il kor equivale a 180 kabin, quindi a 30 sea, che corrisponde quindi a una deduzione di 4,5 kabin, abbiamo detto 9 mezzi kabin, quindi 4,5 kabin per ogni kor, cioè è un quarantesimo, sono quindi 2,5% circa quello che va diminuito quando lui restituisce nel caso di grano e riso. Così è stato calcolato la media della perdita. Se il prodotto è diverso, l'iseorin u le dohan, per orzo e miglio, tisha kabin, la perdita è un po' minore, invece di essere 9 kabin e mezzo, scusate, 9 mezzi kabin, la perdita è maggiore, scusate, 9 kabin interi per ogni kor. Quindi è in realtà una perdita di un ventesimo e restituisce quindi il 5% di meno. Nel caso di le kusmin u le zera pishtan, nel caso si trattasse di spelta e semi di lino, allora la perdita è maggiore ancora, shalosh se'in la kor, 3 se'a per ogni kor, quindi arriviamo addirittura al 10%. 10% di perdita e lui restituisce meno 10%. Ora, è chiaro che questi numeri specifici e riferiti a prodotti specifici è una cosa da applicare in quel tempo, in quel luogo, in quelle condizioni climatiche, geografiche, eccetera. Questo fa presente Rambam nel suo commento, e Rabbi Ovadia di Bertinoro lo riporta. È chiaro che questi non sono dei dettami che sono un dogma che va seguito così. È chiaro che nella situazione dove uno si trova, va seguita la media di quel luogo a seconda di quel prodotto. Ora la Mishnah dice, in realtà, Hakol lefi hamida, Hakol lefi hasman. Punto, questa è la prima opinione della Mishnah, si riassume dicendo quello che il Rambam, appunto, che ho citato, spiega in maniera più allargata: tutto segue la misura e tutto segue il tempo, cioè è anche relativo al luogo, al momento, all'annata, alla, come dicevo, le condizioni climatiche e così via. Ora, in base a questo, si fa il calcolo e si restituisce sempre un po' di meno rispetto a quanto è stato consegnato in questo contesto qui. Interviene Rabbi Yochanan ben Nuri. Dice Rabbi Yochanan ben Nuri: Vechimma ichpat lehen la'achbarim, ma che cosa importa ai topi? E cioè, vahalo ochlin otakamut, vahalo ochlin, loro mangiano la stessa quantità, vahalo ochlin, loro mangiano ben merbe u ben mechima, sia da una grande quantità, sia da una piccola. In altre parole, e la cosa bisognerebbe fare secondo Rabbi Yochanan ben Nuri, dice la Mishnah, e no mozilo chisronot, e la lekure chad bilvad. Gli dovrebbe diminuire, calcolare la diminuzione del prodotto da restituire, non altro che da un kor. Non deve fare il calcolo in base al volume che ha lì, anche se uno ha depositato vari korim, cioè grandi quantità. Rabbi Yochanan ben Nuri dice: il parametro appunto cambia secondo la situazione, secondo il tempo, secondo le condizioni, eccetera, ma non oltre la quantità di un kor, e cioè la perdita sarebbe uguale se fosse per, se appunto l'esempio che lui fa, se per quello che mangiano i topi, diciamo, prendendo questo esempio, poi vedremo che non è così semplice, perché effettivamente ci sono altre motivazioni che portano alla perdita, ma se fosse per una motivazione simile a questa, quello che loro consumano è uguale. Ci possono essere 30 tonnellate, ma il consumo dei topi è uguale. Quindi andiamo in base alla media di un kor solamente. Ed è molto... ha usato un linguaggio molto interessante. Cosa importa ai topi? Per esprimere questa opinione. Visto che possiamo fare una stima di quanto sarà perso a questo tipo di problematica qui, e quella perdita è indifferentemente della quantità, non è in base alla quantità, non è in percentuale a quanto tu ne hai, è una perdita che c'è comunque, e di conseguenza la prendiamo in considerazione in questa maniera qui, secondo Rabbi Yochanan ben Nuri. Allora, il Tana Kama, il primo maestro della Mishnah, come dicevo prima, dovrebbe intervenire e dire: no, aspetta, non ha senso. Perché? Prima di tutto, ci sono altre motivazioni. Come dicevo, la Gemara dice, ci sono altre motivazioni per cui ci possono essere vermi, ci può essere la muffire di alcuni di una certa quantità, eccetera. E la seconda cosa che potrebbe dire il Tana Kama, il primo maestro della Mishnah, è che quando c'è più quantità ci sono più roditori, cioè anche questi stessi topi a cui fa riferimento Rabbi Yochanan ben Nuri, non è così chiaro che sia così come dice lui, perché se la quantità è più grande si uniscono ancora di più. E allora la Mishnah procede, prima di arrivare ad una conclusione c'è ancora una terza opinione, l'opinione di Rabbi Yehuda. L'opinione di Rabbi Yehuda può sembrare sorprendente, vediamo cosa dice. Rabbi Yehuda Omer, im haita midab meruba, se si trattava di una grande quantità che è stata data in consegna, allora, e non mozilo chisronot, non deve proprio calcolare la mancanza, la diminuzione di valore, mipneishe motirot, dato che in realtà c'è un aumento. Cioè, che cosa vuol dire? Rabbi Yehuda è anche d'accordo che esiste un concetto che nel tempo, bisogna considerare il tempo, di quanto tempo questo oggetto rimane presso di te, presso di chi è lo shomer. Perché in base a quel tempo si può capire la diminuzione di valore. Però lui fa una considerazione riguardo alla quantità. Riguardo alla quantità, dice Rabbi Yehuda, se la quantità è grande, che secondo i commentatori quantità è grande significa almeno 10 cor, dai 10 cor in su, non consideriamo la perdita di valore. Perché? Perché lui dice, nel caso del frumento e di simili, cioè come si chiamano, legumi, frumento, legumi, eccetera, nel passare delle stagioni ci sono dei momenti in cui si gonfiano i legumi e il frumento si gonfia, e di conseguenza nel momento in cui hai una grande quantità l'aumento del peso è di più rispetto alla perdita. Rabbi Yehuda non dice che non c'è una perdita, ma dice che non la devi calcolare, perché in base al tempo che passa, ovviamente se parliamo di una grande quantità, di nuovo, nel caso della grande quantità, ciò che è stato l'aumento del peso e del valore, quindi, è di più rispetto a quanto sarebbe stato perso o è stato perso per le problematiche appunto elencate prima. Allora Rabbi Yehuda dice, questa è la considerazione da fare nel caso di una grande quantità e quindi non deve togliere nulla. Riceve indietro la stessa quantità che ha dato. Come spiega Rabbi Ovadia di Bertinoro, quando noi mettiamo via nel granaio, immagazziniamo questi prodotti che nel momento del diciamo fine estate, autunno, cosa succede nel momento dell'umidità invernale? Assumono più peso per il fatto del gonfiamento, diciamo così, e questo rimette a posto quanto è stato perso da eventuali roditori, topi o altre problematiche. E allora è come se Rabbi Yehuda accetta quello che dice Rabbi Yochanan ben Nuri, in un certo senso, però dice, sì, è vero che, cosa ha detto Rabbi Yochanan ben Nuri? Che cosa importa ai topi? Loro mangiano sempre la stessa cosa. Dice, sì, però se la quantità è grande, abbiamo un altro parametro, e cioè un aumento rispetto ad una perdita. Se la quantità è grande, l'aumento è più della perdita. E così, per riassumere il discorso fatto oggi, di queste due Mishnayot, abbiamo nella prima delle due, la Mishnah numero 6, il caso di il fatto di custodire dei frutti, dei prodotti, uno presso uno shomer, il Tanakh Amah dice non toccare questi prodotti, non intervenire. C'è una perdita? Sì, però il tuo problema è essere uno shomer, quindi non toccare. Rabban Shimon ben Gamliel ha detto no, li devi vendere davanti al Bedin, motivazione, perché interviene un altro aspetto qui, non solamente quello dello shomer, ma quello di restituire una perdita a chi lo sta perdendo, a chi subisce la perdita. Nel caso di prendere in considerazione la perdita nel momento della restituzione del bene, ha subito una perdita, quindi perché io shomer dovrei subire anche io una perdita? Allora la Mishnah ha detto no, vanno diminuite le perdite dalla restituzione. E abbiamo fatto tutto uno schema specifico di prodotti specifici, quant' è la percentuale che va ridotta dalla restituzione. E abbiamo visto che ci sono due opinioni che offrono soluzioni diverse. Rabbi Yochanan ben Nuri, che dice che va calcolato in base ad un cor solamente, perché la perdita sarebbe uguale in base al tempo, non in base alla quantità. E Rabbi Yehuda invece dice se la quantità è grande, allora va presa in considerazione questa cosa, visto l'aumento del valore, che è più, nel caso della quantità importante, è più della perdita, allora non deve diminuire, non può diminuire, deve ridare tutto. Allora la nostra Mishnah, le nostre Mishnayot di oggi, abbiamo parlato dell'idea di, in alcuni casi ci viene detto non toccare il picadon, non toccare la cosa consegnata, e la vendita davanti a un Beit Din, l'idea, l'elemento di Hashavat Avedah, di restituire oggetti persi o beni persi o valore perso, e l'idea di restituire un bene con un valore minore rispetto a quello che è stato consegnato. Quindi di fatto abbiamo imparato che no, in un caso normale non va toccato l'oggetto dato per custodire, abbiamo imparato che bisogna salvare dalla perdita eventuale un bene che appartiene a qualcun altro, e abbiamo imparato che esiste questo concetto della diminuzione del valore, e quindi nel restituire un oggetto, anche se non è un prestito, è una cosa che deve essere custodita così com'è, ma prendiamo in considerazione la perdita e la restituzione è minore rispetto alla consegna.